Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Questa sera parliamo del progetto Cultura e Territorio. È una piattaforma informatica, un sistema informativo geografico, cioè uno di quei database che mettono in connessione informazioni di vario tipo con la loro localizzazione geografica. Insomma, danno un indirizzo alle cose e sono alla base di tutte le applicazioni, come per esempio Google Maps, per citare la più nota, applicazioni che permettono di ottenere mappe stradali, di mappare aeroporti, porti, fermate del bus, ristoranti, in questo caso beni culturali. Allora, per parlarci di questa piattaforma informatica e di tutto il progetto, c'è in linea con noi Francesca Traclò, che è direttrice della Fondazione Rosselli, che è una grande fondazione con sede a Roma, che si occupa di ricerca nel campo della cultura e che è stata un po' al centro di tutto il progetto. Buonasera Traclò. Buonasera. Allora, ci faccia subito qualche esempio delle cose che si possono fare con questo tipo di piattaforme. La piattaforma serve, può aiutare i turisti a usare la cultura nella città attraverso una cosa molto semplice, cioè la possibilità di ricevere per esempio sul cellulare con una semplice application un'indicazione sullo smartphone, un'indicazione del museo che c'è più prossimo e anche la possibilità evidentemente di andare poi ad acquistare il biglietto per poterci entrare. Cioè io sono un appassionato, non so, di arte medievale, passo davanti a un museo che sta facendo un'esposizione di quel tipo e mi arriva sul cellulare e dico: guarda che proprio qua di fianco c'è un museo che si occupa di ste cose. Magari se ti interessa puoi anche comprare il biglietto direttamente online. È così, esattamente, no? Sì, esattamente lo stesso. Per esempio la madre che fa shopping può decidere, può verificare se nella zona dove sta facendo shopping ci siano dei laboratori culturali in quel momento dove lasciare per esempio i bambini. Certo, questo insomma, incrocio fra offerta e domanda, perché spesso poi non si utilizzano i beni culturali perché appunto non si sa bene come usarli, no? È un'ottimizzazione dell'offerta, cioè abbiamo la possibilità di rendere l'offerta culturale facilmente accessibile a tutti quanti. La piattaforma rappresenta le fondamenta di questo, diciamo, di questa opportunità, di questo approccio, esattamente, e quello che ci si aspetta poi che gli operatori possano sviluppare i diversi piani del palazzo in maniera tale da creare un valore aggiunto per tutti. Ecco, perché c'è appunto, diciamo, il turista che arriva a Roma che potrà un domani usufruire di queste informazioni, ma poi c'è anche l'amministrazione di Roma, per esempio, che può usare in un altro modo queste informazioni, no? Parliamo di governance. Sì, esattamente. Dal momento che oggi la scarsità delle risorse fa sì che le politiche debbano essere, i soldi che mettiamo sulle politiche debbano essere sempre più efficaci, quello che può fare l'amministrazione è per esempio verificare come i progetti finanziati producono dei risultati sul territorio. E questo come lo fa? In maniera molto concreta, andando a guardare se io finanzio uno spettacolo, quello spettacolo che pubblico ha avuto, con che caratteristiche, oppure se io finanzio un festival, vado a vedere quali sono i ritorni sul territorio del festival. Ecco, ci sono proprio delle mappe che si possono ottenere di metadati, diciamo di dati particolari, per esempio quanto in una certa zona l'offerta culturale è adeguata alla domanda che c'è. Esattamente, il progetto che noi abbiamo fatto in gruppo insieme a Federculture e principalmente insieme a Smart Planning, che è questa associazione di urbanisti, è proprio di mettere in connessione la cultura al territorio. Uno dei dati per esempio più interessanti che è emerso dal contesto romano è che la cultura è concentrata dove non ci sono giovani, e dove ci sono giovani non ci sono contenitori culturali e ci sono scarsissime attività culturali. Questo credo sia veramente un esempio perfetto per far capire a che cosa servono questi sistemi, perché basta una immagine, basta in questo caso una mappa, per rendere evidente questo fatto che altrimenti sarebbe difficile da ricostruire, no? Senta, a che punto siete con lo sviluppo di questa piattaforma? Che cosa c'è oggi di fruibile? Che cosa appunto arriverà domani? La piattaforma, che gira sul sistema GIS, è disponibile sul web ma non accessibile in questo momento. Abbiamo due città che sono state mappate, che sono Roma e Milano, tiene dentro 44 categorie di informazioni che vanno dai contenitori culturali, musei, teatri, alle attività culturali, agli alberghi, alle attività ristorative, e alle attività commerciali, alle caratteristiche sociodemografiche del territorio, proprio per poter permettere domani all'amministrazione innanzitutto e poi a tutti gli operatori di utilizzare questo tipo di piattaforma per poter mettere dentro le informazioni che li riguardano. E allora un teatro per esempio può mettere dentro qual è il suo cartellone, quali sono le attività che svolge, ma può anche poi arrivare appunto a sbigliettare attraverso il sistema e dare informazioni anche sul pubblico all'amministrazione. Allora, grazie Traclò, ci dobbiamo però fermare qui, ma domani andiamo avanti a parlare di cultura e territorio. Buona serata.